La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon venerdì 11 di aprile. Eccoci qua dagli studi di Radio 24 di Milano e vado subito all'argomento del giorno. Lo avete letto forse alcuni di voi, soprattutto però coloro che ci ascoltano da Roma, perché ieri sul Messaggero c'è stata una pagina, un'apertura di pagina, pagina 3, che era dedicata a delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio su un tema delicato. Il tema delicato è quello di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi in diverse trasmissioni qua su Radio 24. Ne abbiamo parlato per esempio lunedì mattina dalla trasmissione della mattina di Alessandro Milan insieme al dottor Tinti, ex magistrato. E il tema delicato era quello del tipi di controlli nella lotta all'evasione, perché Befera, capo dell'Agenzia delle Entrate, presidente di Equitalia, aveva rilanciato in un'audizione parlamentare la difesa dei controlli blitz, come quelli fatti a Cortina, quelli fatti a Porto Rotondo, quelli fatti a Courmayeur nell'autunno-inverno tra 2011 e 2012, che tante polemiche avevano suscitato. Aveva difeso i 2 milioni di euro che da Cortina era stato il maggiore incasso d'imposta, e c'era stata tutta una polemica. Io avevo scritto articoli su giornali anche in questa occasione dicendo che secondo me la cosa più corretta è fare un conto di che cosa lo Stato incassa in più con questo tipo di controllo a raffica per le strade, porta a porta, ogni albergo, ogni impianto di risalita, ogni ristorante. E poi anche però dall'altra parte della colonna un conto economico dei danni da minori attività economiche, perché è un fatto che in quelle località poi i clienti del lusso, soprattutto stranieri ma anche italiani, hanno preferito altre località, e quindi generando un abbassamento ulteriore, come se ce ne fosse bisogno nella crisi di attività economica, e quindi poi minori incassi anche poi fiscali sulle imposte dirette e indirette determinate da quelle attività economiche, che se mancano ovviamente sono incassi in meno. E la cosa singolare è che il Presidente del Consiglio è tornato esattamente su questo aspetto dei controlli blitz, che per esempio il dottor Tinti difendeva, mentre secondo me i controlli si fanno diversamente, si fanno concentrando gli uomini e risorse laddove c'è davvero la grande evasione. E il Presidente del Consiglio ci ha lasciato tutti piacevolmente stupiti, perché chi ha letto il Messaggero ieri trovava delle frasi di Renzi virgolettate: basta con i blitz fiscali, basta con la lotta perenne all'inseguimento dell'abbassamento del contante, concentriamo le risorse in maniera diversa nel fare la lotta all'evasione. Allora, partendo da questo e poi occupandoci di tutta la parte che c'è nell'allegato al DEF in materia fiscale, nel piano nazionale di riforme, cioè che cosa bisogna attendersi dal governo, questa volta messo nero su bianco in applicazione della delega fiscale parlamentare, ma non solo su quello, abbiamo chiesto una voce ufficiale, per così dire, quindi il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Enrico Zanetti, che è qui con noi oggi pomeriggio. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, partiamo, sottosegretario, dalla dichiarazione di Renzi, e bisogna prenderla come una linea ufficiale, cioè una svolta in arrivo rispetto alla gestione Befera. Questo al di là del fatto se poi Befera davvero, come scrivono anche stamattina alcuni giornali, resta o meno, però l'indirizzo del governo è un indirizzo di farli, sì, i controlli sono sacrosanti, ma in quella maniera lì e non in quell'altra? Sicuramente che anche il Presidente del Consiglio abbia deciso di uscire in questi termini è una cosa che ci fa piacere. Devo dire che però in autonomia, posto che comunque rientra dalle nostre competenze, questo genere di linea noi già da tempo la sosteniamo. I controlli da parte delle entrate devono sempre più concentrarsi su un utilizzo efficiente di quelle che sono le banche dati che ha a disposizione e anche dei tanti poteri che dal 2006 in avanti, giustamente, sottolineo tre volte giustamente, gli sono stati dati, perché dal 2006 in avanti prima un governo in centro-sinistra, poi un governo in centro-destra, poi un governo tecnico hanno completato un tassello di poteri sulla riscossione, sugli accertamenti esecutivi, sul redditometro, sull'anagrafe dei conti correnti trasparente, che oggi francamente non dà più alibi. Il problema quando si dice ma cosa si farà per la lotta all'evasione, sapete cosa si farà? Non tanto introdurre nuove cose, perché veramente diventa anche difficile immaginare quali altri poteri introdurre, si farà in modo che finalmente chi utilizza questi poteri li utilizzi bene, questo faremo. Quando si parla dell'utilizzo, significa anche cambiare un pochino le regole con le quali si orientano le risorse, quelle tecnologiche le ha appena ricordate lei, quelle del potenziamento delle norme le ha appena ricordate lei. C'è un aspetto che riguarda anche poi l'utilizzo delle risorse umane, del capitale umano che è ingente nelle giovani generazioni, anche preparato di quelli più anziani all'interno dell'Agenzia delle Entrate, e a seconda delle direttive che poi ricevono naturalmente instradano i controlli in una direzione o in una dell'altra. Come concretamente farli concentrare più su indagini che magari richiedono più tempo, sono più faticose, perché per l'emersione di soggetti sconosciuti è ovvio che ci vuole più tempo e più risorse, più capacità, piuttosto che andare a fare porta a porta di chi si conosce, o no? Assolutamente, guardi, è un insieme di azioni che dobbiamo andare a mettere in essere. Uno è intanto cambiare appunto anche il sistema di incentivazione dei dirigenti, perché dell'agenzia, perché oggi il budget che viene loro attribuito di tipo quantitativo, ed è logico che ci sia, perché un obiettivo di recupero quantitativo nel rapporto con il MEF è normale che ci sia, oggi però non è minimamente declinato. Cioè un euro recuperato facendo attività difficili di investigazione, o un euro recuperato semplicemente andando a fare contestazioni più o meno burocratiche su quello che i contribuenti dichiarano, vale sempre uno. Non può funzionare così, devono esserci dei pesi diversi, proprio perché deve essere valorizzata e incentivata l'attività più di emersione del sommerso che di richiesta di un rabocco a chi è già emerso, ai soliti noti. Questo però necessita appunto di interventi di indirizzo anche a livello convenzionale, altrimenti, lo dico con chiarezza, fossi io un dirigente dell'Agenzia delle Entrate di fronte a uno Stato che mi dice la cosa difficile e la cosa facile te la valuto uguale, alla fine manderei a quel paese lo Stato e farei anch'io la cosa facile. Cioè questo deve esserci chiarezza, non è che chi lavora nell'agenzia lo fa perché è un sadico. No, è che in questi anni è stato abbandonato da una politica che ha preferito lasciare a una ristretta cerchia un potere esagerato della serie tu portami i soldi e fai quello che vuoi, dove per quello che vuoi intendo non solo nei confronti dei contribuenti ma anche nei confronti di percorsi di carriera interno che nell'ambito del mondo agenziale sono, devo dire, abbastanza poco trasparenti, e me ne accorgo oggi che ho più possibilità di verificare dall'interno alcune cose successe. Senza fare pogrom, però è chiaro che noi qui vogliamo andare a fare anche delle riforme strutturali che non ridurranno minimamente i poteri nella lotta all'evasione, perché quelli servono a tutti, ma li redistribuiranno in modo che ognuno faccia bene il suo. L'Agenzia delle Entrate deve fare l'accertamento, non deve interpretare anche le norme, non deve fare comunicazione all'esterno che poi la porta appunto a scegliere le attività più frizzanti in termini comunicativi per autogiustificare se stessa piuttosto che utili nella lotta all'evasione. Alcune cose le deve fare il MEF, altre cose le farà l'Agenzia delle Entrate, e per quanto riguarda Equitalia, anche Equitalia deve essere portata sotto il controllo diretto del allora, se... Equitalia è sconosciuta. Su questo ci torniamo, perché c'è una proposta che gira che mi ha fatto sobbalzare vedendola stamattina. Intanto le chiedo un breve flash, perché poi abbiamo i 60 secondi di informazione stradale. Ma lei, che viene dalla professione di commercialista, è un combattivo commercialista anche nella rappresentanza dell'ordine con Eutecne e così via. Adesso che sta al Ministero, i dirigenti dell'apparato tecnico la vedono ancora come un nemico, o invece poi, siccome sono bravi, preparati, eccetera, eccetera, non c'è nessun problema per lei? Ma guardi, forse al netto di qualche soggetto in posizione apicale che comprensibilmente può temere che un progetto di riforma incisivo come quello che vogliamo portare avanti possa essere ostile, le assicuro che ultimamente io ricevo più sollecitazioni, telefonate e incoraggiamenti da dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Equitalia che non da commercialisti, perché hanno una voglia di essere... Ma questa è una bella cosa, perché dal di dentro si capisce che si può lavorare meglio e senza scontro sociale, per così dire. Se pensiamo che l'anno scorso ci sono stati gli episodi con le lettere esplosive che arrivavano alle sedi periferiche dell'agenzia, è meglio cambiarla anche questa attitudine, per così dire, perché poi di matti che mandano queste cose non solo deprecabili ma che vanno perseguite con tutta la durezza, rispetto invece al malessere generale che c'è nel paese, vanno distinte. Però secondo me si può lavorare anche al fine di non crearlo questo malessere o di attutirlo. Allora abbiamo 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con il sottosegretario Enrico Zanetti a parlare di fisco. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati dagli studi di Radio 24 di Milano. Stiamo parlando di fisco con il sottosegretario al Ministero dell'Economia e della Finanza Enrico Zanetti. Un'ipotesi che ha iniziato a girare proprio in queste ultime ore, da ieri e oggi, e che secondo me contrasta un po' con quello che ci stava dicendo, ma vediamo se ho capito bene, è un'ipotesi invece di procedere a un ulteriore accorpamento degli apparati tecnici. Si parla di unire, secondo questa indiscrezione, l'Agenzia delle Entrate con Equitalia. Lei ci stava dicendo prima, beh, la politica deve dare, cambiando anche dove è giusto le metodologie di premio, di incentivo e così via, deve impartire dei criteri, cioè deve, per così dire, fare un po' marcia indietro rispetto a questo processo che è stato evidente negli ultimi anni di un apparato delle entrate che via via era sempre più autonomizzato, che finiva per scrivere le norme, non solo per interpretarle con le circolari, magari anche in maniera difforme poi nelle diverse articolazioni territoriali. Questa ipotesi di accorpamento tecnico mi interesserebbe capire, lei come la giudica? Ma guardi, l'ipotesi di accorpare l'Italia dentro l'Agenzia delle Entrate, per quanto mi riguarda, è follia allo stato puro. La mia impressione francamente è che questo tipo di idee di riforma sono idee della tecnocrazia stessa, ecco, che vuole proseguire un percorso che però, come le dicevo prima, noi siamo assolutamente intenzionati a modificare radicalmente. Gli ultimi 10 anni che ci vogliono raccontare, anche a volte con delle cifre, del rapporto tra fisco e contribuente non sono stati una storia di successo, chiaro? Quindi l'ultima cosa che è sensato fare, quantomeno lo dico con tutta l'assertività del caso per quanto riguarda il sottoscritto e Scelta Civica, è procedere a un ulteriore accorpamento di Equitalia all'interno dell'Agenzia delle Entrate. La cabina di regia del fisco italiano deve tornare ad essere il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate e l'Equitalia, separate funzionalmente, essere i suoi bracci operativi. Basta con un'Agenzia delle Entrate che è una sorta di Ministero delle Finanze completamente svincolato da controlli sostanziali esterni. Senta, anche nell'audizione della settimana scorsa si diceva invece che nell'arco di un decennio passare da 3 a 13 miliardi, altro che se è un successo. Io non la voglio far polemizzare con nessuno, però è come se lei dicesse, in realtà anche quei 13 sono poca cosa rispetto a quello che si può ottenere, non si deve ottenere potenzialmente, ma quello che si può ottenere stante le risorse e le possibilità tecniche e normative a disposizione, ho capito bene? Avanti rispetto ai tre, però bisogna fare due valutazioni. La prima è che appunto dal 2006 in avanti all'Agenzia delle Entrate sono stati dati poteri nemmeno paragonabili al passato, quindi il confronto, come dire, andrebbe fatto a legislazione invariata, invece in questo modo con maggiori poteri è un confronto della serie mi piace vincere facile. La seconda considerazione è che quei 13 miliardi poi vanno guardati analiticamente, che 13 miliardi sono, ecco, quanti sono vera emersione del sommerso e quanti una maggiore inasprimento di quella caccia ai soggetti già sommersi. Non dico che va tutto male e sottolineo che dentro l'Agenzia delle Entrate ci sono risorse umane che chiedono di essere messe in condizioni di lavorare al meglio perché sono di grande qualità. Però se vogliamo dire che quello che è stato fatto in questi anni è fantastico, no. No, noi abbiamo idee molto diverse per riuscire a fare una lotta all'evasione davvero ancora più efficace. Allora, io siccome apprezzo molto avere interlocutori diretti al governo che parlino un pochino la nostra lingua rispetto al contrasto di questi anni, perché mi è capitato tante volte di... Allora, le chiedo, c'è un'appendice al Piano Nazionale delle Riforme e al DEF che è proprio dedicata alle questioni fiscali, cioè a che cosa da questo governo, il governo impegnativamente in sede di DEF e PNR ha messo per iscritto di ciò che il contribuente può attendersi da lui nei prossimi mesi in applicazione della delega fiscale, ma non solo. Se dovesse dirci in sintesi, spiegarcelo in 4 minuti adesso, quali sono i caposaldi di ciò che possiamo attenderci a breve nel medio periodo come programma impegnativo di questo governo? Meno spesa per meno tasse, una semplificazione concreta e reale, la certezza del diritto per superare il problema dell'abuso che è giusto contestare ma che in questo momento non regolamentato sta creando dei problemi enormi. E poi appunto un rapporto fisco-contribuente basato sulla massima legalità fiscale, ma anche finalmente su un po' di democraticità nella divisione dei poteri tra le diverse istituzioni. Quando lei parla di abuso, significa che davvero ci si può attendere una ridefinizione chiara, normativa dell'abuso di diritto che non sia un po' alla mercé dell'interpretazione d'aula, del giudice, come è avvenuto in questi anni? Cioè c'è una ridefinizione normativa da attendersi? Guardi, un minimo di ali interpretativa su questa materia ci sarà sempre perché una caratteristica è impossibile, però nell'istante in cui cominciamo a scrivere bello chiaro nella norma che un contribuente ha diritto proprio di scegliere la soluzione fiscalmente meno onerosa quando per arrivare a un determinato obiettivo può scegliere più strade alternative, facciamo già un gran bel passo avanti per eliminare tutto il falso abuso e lasciare in piedi solo le vere e proprie operazioni finte, finalizzate solo a risparmi di imposte e non a raggiungere dei veri obiettivi economici. No, a me non c'è dubbio, ricordo a tutti anche questo caso, ne abbiamo parlato 2 settimane fa quando il procuratore generale di Milano Santamaria in processo d'appello di Dolce & Gabbana ha dato un'interpretazione di norme vigenti totalmente opposte rispetto all'accusa e anche alla condanna di primo grado. Vediamo, questa è stata solo la requisitoria, ha chiesto l'assoluzione per Dolce & Gabbana, vediamo quale sarà la sentenza, ma il problema è che evidentemente, come si capisce, le norme in materia di scelta di più possibilità senza violazione di alcuna norma del nostro ordinamento, tranne che per la scelta in se stessa, volta ad ottenere un vantaggio fiscale, ma alla luce del sole, come era in quel caso con società che stavano all'estero, avevano le royalties, ma erano tutte dichiarate, erano tutte note, capite che per me già questo, fare un passo avanti come quello che ci dichiara, ci descrive il sottosegretario Zanetti, per il contribuente non sarebbe poca cosa. Se le chiedessi invece un'opinione intorno alla scelta, come componente del governo non può che difenderla, però la scelta di cominciare dalla detrazione IRPEF sul reddito dipendente e poi procedere con altro. Ecco, il governo facendo questa scelta, al di là delle elezioni, lasciamo perdere, questo c'è anche l'argomento elettorale, ma tecnicamente che cos'è che ha anticipato questo fattore rispetto all'IRAP alle imprese? Io la difendo non in questo caso d'ufficio ma convintamente. Io ero un libero professionista, un uomo di impresa, eppure sono convinto che nell'istante in cui bisognava partire facendo delle scelte per non fare i soliti interventi a pioggia, alla fine non tangibili per tutti, nell'istante in cui abbiamo dovuto fare delle scelte è stato giusto partire innanzitutto da misure finalizzate a restituire potere d'acquisto a famiglie a basso reddito, quindi anche a bassa capacità di risparmio, confidare appunto che questo si traduca, come tutto ci sembra portare a credere, si traduca in un aumento dei consumi, quindi in un sostegno della domanda interna, quindi a una ripartenza anche di maggiore disponibilità per le imprese, e poi a valle andremo in modo sempre più incisivo a rendere meno costoso l'assunzione di quei nuovi lavoratori che il rilancio della domanda interna renderà davvero necessari, altrimenti partire da rendere meno costoso il lavoro in un contesto in cui non ci sono ordini o tivi è più una questione ideologica che una questione pratica. Senta, il Presidente del Consiglio ha detto che la settimana prossima, ha detto ci sono allo studio varie ipotesi, però questo ce lo chiedono alcuni ascoltatori che evidentemente sono sotto la soglia di rilevanza per pagare l'IRPEF, quindi sono incapienti. Il Presidente del Consiglio ha detto noi stiamo studiando e faremo un intervento, il Sole 24 Ore ieri e oggi se ne è occupata la stampa ieri, non le chiedo i dettagli perché se ci sono allo studio i dettagli non ce li può dare, però ci può confermare che la volontà politica è anche di pensare a chi sta sotto la soglia degli 8.000 euro IRPEF? Sì, la volontà politica è di completare il quadro degli interventi dedicando anche circa 1 miliardo a un intervento in questa direzione, poi la soluzione tecnica può essere o forme di restituzione appunto dell'imposta negativa oppure una decontribuzione sostanzialmente dei contributi in carico al lavoratore dipendente, quelli li stiamo ancora verificando, la volontà politica c'è, forse non sarà contestuale, l'intervento sarà un attimo differito anche perché ci siamo dati dei tempi talmente stretti, insomma è tutto molto complicato, intanto la prima parte ci sarà, su questo stiamo lavorando. Va bene, allora grazie Enrico Zanetti, mi raccomando fermate questo arroccamento Agenzia delle Entrate ed Equità Italia dei mandarini, dagli altri papaveri del fisco, e poi mi pare di capire, questo non lo può dire il sottosegretario, ma lo dico io, finisce l'era Befera tra poco e speriamo che finisca per il meglio, ringraziando anche Befera per tutto quello che ha fatto. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a lunedì.